Hashtag Autotrasporti. Buon pomeriggio da Andrea Ferro, ben ritrovati all'appuntamento del lunedì qui a Radio 24 con le notizie dal mondo dei trasporti e della logistica. Al di là della stagione sono giorni caldi su vari fronti, fronti che seguiamo da tempo in questo programma eppure nei nostri GR. Partiamo dall'emergenza sulla 14, diventata un caso nazionale. I collegamenti tra Marche e Abruzzo da settimane sono difficilissimi, con tempi di percorrenza infiniti per poche decine di chilometri. Su alcuni viadotti dissequestrati, autostrade sta sostituendo le barriere di protezione con restringimenti di carreggiata. Altri tre viadotti restano sotto sequestro da parte del Tribunale di Avellino nell'ambito dell'inchiesta sui guardrail, seguita alla tragedia di Acqualonga del 2013, il pullman precipitato dall'autostrada A16. E tra i viadotti ancora sotto sequestro c'è il Cerrano, nel tratto tra i Caselli di Pescara Nord e Atri Pineto, sul quale vige lo stop ai mezzi pesanti imposto dagli organi ispettivi del Ministero per ragioni di sicurezza. Così i tir vengono deviati sulla statale adriatica, traffico nel caos, livelli di smog in aumento, la vita sconvolta per gli abitanti di molti comuni e tempi e costi insostenibili per gli autotrasportatori. Oggi riunione decisiva al Ministero e sulla base dell'ultima relazione di Autostrade il Cerrano può riaprire anche i mezzi pesanti seppur a velocità ridotta. Dicevo, dei comuni che pagano a caro prezzo le conseguenze dell'intasamento della statale, uno dei più penalizzati è Silvi Marina, in provincia di Teramo, al nostro microfono il sindaco Andrea Scordella. È dal 20 di dicembre che eravamo a conoscenza della criticità del trasporto dei mezzi pesanti sul nostro territorio e da allora abbiamo già iniziato attraverso le attività di monitoraggio dei flussi veicolari. Siamo arrivati all'apice con oltre 4.000 transiti di mezzi pesanti sul nostro territorio urbano e dunque in pieno centro città. Una situazione sicuramente insostenibile da parte di tutti gli utenti, ma soprattutto da parte dei residenti di questa cittadina. Sicuramente un danno non solo alla salute, all'ambiente, ma anche all'economia dell'intero territorio. Avendo a disposizione soltanto le uscite delle due tratti semaforici, abbiamo con lo spegnimento del semaforo, dunque il semaforo a lampeggio, non c'era più la possibilità da parte di automobilisti che uscivano dalle traverse laterali, dunque dal lungomare, di poter immettersi nella statale. Situazione molto delicata, tant'è che si sono verificati dei piccoli episodi, naturalmente di poca rilevanza, ma non è che dobbiamo aspettare l'incidente mortale oppure grave. Sicuramente è una situazione difficile, critica. Altro fronte caldo, quello delle isole, dopo che è scattato l'aumento delle tariffe dei traghetti, un rincaro tra il 20 e il 30% motivato dal fatto che gli armatori hanno dovuto investire per adeguare le navi alle nuove disposizioni internazionali in materia di abbattimento delle emissioni inquinanti, manifestazioni con qualche blocco dei servizi all'inizio della scorsa settimana in alcuni porti della Sicilia e della Sardegna. La protesta è stata sospesa dopo un vertice al Ministero e un altro alla Regione Sicilia, durante i quali si sono gettate le basi per trovare soluzioni e quindi calmierare l'aumento dei noli. Un nuovo incontro è in programma questa settimana a Roma con la ministra Paola De Micheli. Tra i promotori della protesta Trasporto Unito, il segretario nazionale Maurizio Longo. Il tempo che si è preso il ministro è quello dell'approfondimento dei due strumenti, cioè la convenzione per la Sardegna in vista della modifica che c'è entro il mese di luglio. E per quanto riguarda invece la Sicilia, lo strumento del mare bonus. Da alcuni anni chiediamo l'intervento su questi due strumenti. Il primo, che riguarda la convenzione storica e quindi l'introduzione e la possibilità di introdurre elementi che possono facilitare la movimentazione delle merci per mezzo della infrastruttura del mare, e l'altra, che è il mare bonus, per il quale auspichiamo una modifica del modello organizzativo. Allo stato attuale l'incentivo va a favore della compagnia di navigazione, che poi distribuisce le risorse. Noi vorremmo rivedere l'intero modello organizzativo di questo incentivo, proprio perché l'esperienza invece dell'eco bonus, a suo tempo attuata, ha dato maggiori risultati in termini di quantità di mezzi pesanti trasferiti a mezzo le vie del mare, e non solo, ha dato anche la possibilità alle imprese di trovare e di organizzarsi in termini aggregativi che culturalmente aiuterebbero una categoria in difficoltà. E a proposito di incentivi a favore dell'intermodalità, la legge di bilancio 2020, pubblicata nei giorni scorsi sulla Gazzetta Ufficiale, ha dato il via libera a nuove risorse per Mare Bonus e Ferro Bonus. In particolare per il Mare Bonus per il 2021 sono stati stanziati 20 milioni di euro, mentre per il Ferro Bonus sono previsti 14 milioni di euro per il 2020 e 25 milioni per il 2021. L'aggiornamento dal mercato dei veicoli industriali ci dice che il 2019 ha chiuso in chiara flessione. Secondo l'elaborazione di un RAE, le immatricolazioni di nuovi mezzi sono state il 7,5% in meno rispetto al 2018, su base mensile. In particolare nel settore dei veicoli sopra le 16 tonnellate, a dicembre si è registrato un calo del 9,9%. Significa quindi che l'età media del parco circolante, già tra i più vecchi d'Europa, è destinata a salire ancora. Ora torniamo al Brennero, partiamo dai dati del traffico al valico autostradale. Secondo un giornale del Tirolo, nel 2019 sono transitati 2.469.000 veicoli pesanti, quasi 50.000 in più rispetto al 2018, con un incremento percentuale dell'1,9, mai così tanti. Ufficialmente, per ragioni di salvaguardia ambientale, l'Austria da tempo ostacola il flusso dei mezzi sull'asse tra Italia e Germania, con divieti e limitazioni di vario tipo che però non riguardano gli autotrasportatori locali e che, stando a vari indicatori, di fatto non incidono in termini di sostenibilità, ma semplicemente penalizzano la nostra logistica e quindi il nostro export. Per questo c'è chi, dietro questi provvedimenti, intravede il pretesto per favorire i propri vettori, insomma una forma di concorrenza sleale. Nei giorni scorsi la nuova coalizione di governo ha presentato le linee guida in materia di trasporti. Il programma di Vienna prevede un inasprimento delle limitazioni al transito dei TIR, con la possibilità di un aumento dei pedaggi e del prezzo del gasolio, ma solo appunto per i mezzi in transito al Brennero. Le associazioni Anita e Conftrasporto in testa protestano, si mobilitano le camere di commercio dei territori che da tempo soffrono le conseguenze di queste limitazioni. Mario Pozza è il presidente di Union Camere Veneto. L'Austria, come al solito, rilancia, pensa di essere un granducato perché non può pretendere lei di essere controllata e controllore, visto l'accordo che ha raggiunto con la commissaria ai trasporti di monitorare per un anno qual è il flusso del transito. Credo che sia veramente al limite della decenza. Allora noi dovremmo monitorare quali sono i danni dell'economia nostra, non solo nostra, di questi rallentamenti. Il sistema camerale si è mosso anche a livello europeo con Eurochambre, quindi le camere di commercio italiane, austriache e della Germania hanno presentato un documento comune dove si chiede ovviamente il ripristino dei transiti, trovando una formula che sarebbe quella soprattutto di sviluppare verso le ore notturne il traffico in modo tale da evitare intasamenti e soprattutto quel timore che c'è dei grandi inquinamenti. Dobbiamo tenere presente senz'altro l'ambiente, ma anche l'economia. È l'economia che fa vivere le comunità, è l'economia che fa mettere in moto tutte quelle azioni per far sì che l'ambiente sia un ambiente sano e un ambiente vivibile. Sicurezza stradale: purtroppo il 2020 è iniziato con una serie di gravissimi incidenti, in più di un caso ancora una volta provocati dalla guida in stato di ebbrezza. Al nostro microfono Giovanni Busacca, che è il direttore del servizio di polizia stradale. Non è vero che si può guidare dopo aver bevuto sostanze alcoliche, non è vero, è falso, e anche chi dice che è abituato, dobbiamo dire che non è possibile. Non si può condurre un'auto, quale che sia la velocità, non la si può condurre correttamente, non ci sono i riflessi adeguati. Questo lo dobbiamo dire a chiare note e dobbiamo riproporre il tema della autoresponsabilità. Differentemente sarà difficile frenare questo fenomeno. Lo diciamo chiaramente: alcol zero. Le sanzioni sono tra l'altro le più forti e le più, come si dice, impattanti dell'ordinamento. Abbiamo anche la normativa sull'omicidio stradale, che è una fattispecie di reato autonomo. Pensiamo che nella fattispecie più grave è previsto da 8 a 12 anni di carcere per chi uccide una persona su strada e ha un grado di alterazione per alcol superiore a 1,5 grammi su litro. Sta per arrivare il GR delle 14, hashtag autotrasporti torna lunedì alle 13.45. Grazie per l'attenzione, da Andrea Ferro ancora una buona giornata. Hashtag autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.